Che cosa ti serve per escrivere un bambino che ha più di 6 anni e meno di 13 anni a scuola? Se tuo figlio ha più di 6 anni e meno di 13 anni, puoi fare l'iscrizione alla scuola primaria, che molti chiamano scuola elementare, o alla secondaria di primo grado, che molti chiamano scuola media. Per avere informazioni sull'iscrizione, devi rivolgerti agli istituti comprensivi vicino a casa tua. L'iscrizione è online sul sito MIUR.